Signore e signori, bentornati a Morti di Bestemmie! E un grande applauso, un fortissimo applauso a Morti di Bestemmie. Siamo tornati, nonostante il 2016 ha fatto un sacco di morti, siamo qui. E sono sempre io, Alex Raccuglia, da Milano. E poi da Roma ci sono Simone Pizzi, the man. Ciao, ciao, ciao a tutti. Siamo partiti, ma con il singhiozzo, avete sentito? Siamo partiti col singhiozzo. E con me c'è chiaramente Marco Gualdi. Buonasera a tutti quanti, ragazzi, bentornati, buon anno, finalmente un anno che non è più il 2016, quindi c'è molta gente che morirà di bestemmie anziché di morte quasi naturale. E poi lo diciamo subito, allora tutti dicevano speriamo che finisce sto 2016, poi dopo è iniziato il 2017 che non mi pare da sia tanto diverso, però tutti dicono e sono gli strascichi del 2016. Sono sempre gli strascichi, come le scoregge famose che lasciano gli strascichi. Ok, tu dopo 27 anni ancora non sai che devi parlare da questa parte del microfono. Insomma, il microfono cala e dopo 27 anni il microfono cala. Alex, tutto bene? Ma direi benissimo. Siamo partiti col singhiozzo. La colpa è mia perché sì, non frega un cazzo, sì, non ho voglia di spiegartelo. È soltanto colpa mia. Che dire? 2017, diciamo che secondo me sta affilando i coltelli, perché secondo me è iniziato già con un po' di scoregge, però il grosso delle bestemmie arriverà fra non molto. Io mi aspetto un inverno, Alex, del nostro malcontento. Alex, sì? Hai sentito che Trump appena arrivato ha detto sti ambientalisti ci hanno rotto il cazzo? È stato grande, ci ha detto basta, questi ambientalisti stanno prendendo il sopravvento. Allora, basta, però Marco, non iniziare a dire cose banali e superficiali, com'era? No, allora, noi siamo quelli che ti raccontiamo un sacco di banalità e luoghi comuni, anche superstizioni a volte. A volte sì. Che poi la cosa bella è che a me ha fatto ridere questa cosa di Trump, perché Trump ha vinto le elezioni dicendo l'America, gli americani, pensiamo solo ai cavoli nostri, faremo l'America grande, e la prima cosa che fa sposta un'ambasciata da una città all'altra spendendo i soldi dei contribuenti. Beh, però quello si fa per muovere il mercato, insomma, lo diceva anche Berlusconi, bisogna fare la spesa e spendere 100 anziché 50. Poi scusa, io sono ignorante politicamente, no, da un certo punto di vista, ma spostarla non è vero, non è vero, fai tutta scena, ma in realtà sai un sacco di cose, sei un esperto di politica internazionale soprattutto, ma spostare l'ambasciata della Viv a Gerusalemme, no? Oltre al fatto che devi rompere cazzo a qualcuno, no? Qual è il motivo? È per far capire che comanda lui. Che comanda lui, infatti. Fa vedere che c'è il cazzo grosso. Perché il problema è sempre quello: far vedere che c'è il cazzo più grande degli altri. Okay, giusto, okay. Alex? Non ricorda qualcuno questa cosa. È sempre una questione di cazzo grosso. Che poi il problema. Il problema è proprio quando le battaglie si combattono su questa cosa. Vi ricordate un certo. Adesso non vorrei fare dei nomi, sì, che ma magari. No, infatti, infatti parliamo in codice. L'analogia era quella, vai. Sì, che oh, io mi chiamo nel culo tutte le diciottenni. Sì, e allora chi cazzo se ne frega? Io non so. Forse sono a uno stadio evolutivo del non me ne frega più un cavolo, per cui non ho l'invidia del pene come tanti altri maschi. Ma no, ma poi è giusto denaro, la giusta pasticca, si può fare tutto, cioè non è che è una cosa che insomma sconvolge il mondo. Il problema è che la donna sessantenne italiana c'ha ancora la visione del fatto quanto deve essere maschio sto uomo, perché lei pensa che fa tutto da sé, capisci? Ma è così, ma è normale, l'uomo deve essere maschio fino alla fine. Però io c'ho un'altra domanda su Trump, poi entriamo sul vivo della trasmissione, quella vera, cioè nel senso l'argomento è la cravatta rossa. No, non adesso no, l'altro giorno non ce l'aveva all'inaugurazione, si vede che non gliel'hanno fatto fare. No, perché era troppo comunista. Era troppo socialista. Mi dispiace, ma lei non può. La mia bocca rotta, perché c'è la bocca tutta a cappa. Lui c'ha il culo da papera naturale, quindi non c'è bisogno di mettersi. Poi si vede proprio un bambino viziato con i miliardi, questo, cioè proprio. Comunque, me l'ha spiegata la cravatta rossa, tu lo sai, tu sei uno informato di solito. Io non so un cazzo della cravatta rossa, so soltanto che è molto appariscente. E fa molto comunista, poi si confonde, lui poi è proprio si confonde col sangue, okay. Ah, dici, se gli sparano già c'è la rossa la cravatta. Tu Alex sai qualcosa sulla cravatta rossa? Guarda, non ci avevo fatto caso e sinceramente vivevo benissimo anche così, poi sai, ognuno c'ha i suoi gusti, francamente ripeto, tutto quello che riguarda Trump mi indispone un po'. Ma ho visto che ha parecchia gente, ma lui dice frega un cazzo, frega un cazzo. Io ho armi atomiche. Comunque, diciamo subito che questa puntata di Morti di Bestemmie doveva andare in linea, insomma, molto tempo fa, perché per un po' di tempo siamo stati assenti. In linea, perché adesso è fuori, è fuori linea. Non siamo più in linea da tempo, siamo la linea. Esatto. No, il fondamentale è stato questo, cioè è stata la puntata, si è trasformata, perché doveva essere la puntata si di è trasformata per forza, perché no, aspetta, doveva essere la puntata di Natale. Non facendo. Poi a un certo punto è venuta a mancare la principessa Leia. E allora doveva essere la puntata della principessa Leia. Esatto. Che poi non abbiamo fatto. Poi ho detto, raga, fatto sì, perché il 2016 erano morte tante persone. Allora, poi ho detto, raga, perché solo la principessa Leia? Perché poi da qui a fine anno, che mancava ancora meno di una settimana, a voi gente a morire, insomma, aspettiamo. E poi abbiamo aspettato un po' troppo, in effetti. Perché ricordiamo che noi abbiamo passato gli ultimi giorni dell'anno facendo il conto alla rovescia per il povero Will. Che povero non lo è a questo punto, ha guadagnato un altro anno. Esatto, l'ha seppellito tutti. E noi ogni tanto dicevamo: mancano 3 giorni, Will, dai che ce la fai, che anche quest'anno l'hai svangata. Ma vabbè, poi alla fine in qualche maniera però se volete sapere, insomma, il pensiero, la commemorazione, diciamo il sentimento che noi abbiamo avuto verso Carrie Fisher, quindi l'ex principessa Leila, andate su Spreaker, cercate appunto Runtime, cercate negli show gli speciali di Runtime. Abbiamo fatto un piccolo audio di 5-3 minuti, insomma, dove Caliendos esprime, diciamo, il suo sentimento verso questo personaggio, che non è manco l'unico che è morto, insomma, perché però poi è c'è quello che da bambino lui si voleva chiamare, probabilmente perché la si ricordava come la schiava di Jabba. Lui però lo dice nel suo audio, dice: in realtà quella scena in cui lei era inaspettatamente sexy, quando in realtà poi non lo è mai stato più di tanto, e alla fine, cioè, voglio dire, un po' anche rifatto tanti nerd, insomma. Intanto ci scrivono dalla regia, ci scrivono sì, din dong, chi è? Va bene, sto cazzo. Vabbè, però sulla scaletta, perché come dicevamo, appunto, abbiamo voluto puntualizzare il fatto che questa scaletta è stata demandata 50 volte, perché uno non c'aveva la cagarella, l'altro c'aveva mal di testa, l'altro c'aveva, cioè, qualcuno c'era, ce l'abbiamo anche, ce adesso ancora, eh. Esatto, qualcuno c'era il ciclo mestruale, altri mestruale, e allora alla fine è successo che questa puntata si è trasformata nel corso dei giorni, e però sono rimasti dei residui. Per esempio, vogliamo parlare del pranzo, che dato che si doveva intitolare Morti di Natale, soprattutto perché sono passati ben 30 giorni da Natale, quindi siamo proprio ancora a tema, diciamo, è ancora calda la cosa. Ricordiamoci i cenoni di Natale. Chi non è sopravvissuto, chi non ce l'ha fatta, chi può dirlo? Io ce l'ho fatta perché ho mangiato il brodino caldo. Non so, Alex, tu vedo che hai ancora dei rimasugli, credo, della cena di Natale. Guarda, sì, perché poi tra l'altro adesso che ho due famiglie ci si divide tra, perché tu sei i miei, che sono minimalisti, ricordiamolo, insomma, ricordiamo che è bigamo, hai scoperto, esatto, la bigamia, insomma, quindi esatto, sono bigamo, e i genitori iperterrori della mia di mia moglie, perché che appunto fanno dell'abbondanza una regione di essere, sì, tra l'altro la nonna di Micaela è nonna, è meridionale e ha lavorato nella ristorazione, per cui è cintura nera decimo dan di nonna, ed è abbastanza complicata la cosa, però non è molto divertente, insomma, che raccontare del pranzo di Natale. Mi sono rotti i coglioni, perché sei lì, mangi, poi ti siedi sul divano, dormi, mangi, non combini un cazzo. Io sono di sotto, io mi divertivo a Natale perché a Natale fondamentalmente lavoravo e riuscivo a trovare un po' di tempo per fare i cazzi miei. Quest'anno invece un cavolo, per cui vaffanculo a Natale. Vaffanculo. E tu, Marco, invece? Io non ho fatto niente, per cui ho mangiato solo in famiglia, ciò che faccio veramente sempre. Quindi, in famiglia, per cui non niente di nuovo. Mi sono rotto il cazzo anche io. Ma io invece, contrariamente da voi, ho passato il Natale perfetto, perché non c'erano parenti di nessun genere, di nessun livello e di nessuna classe sociale. E perché erano tutti chi da una parte e chi dall'altra. L'unica cosa è che mi sono sbabbato un'oretta e mezza a cena mio padre la vigilia, l'ho preso e l'ho riportato a casa. Se no, non essendoci nessuno, io e Michele abbiamo mangiato e dormito. È stata veramente poi quel poco di vacanze di Natale, perché noi poi alla fine, cioè, quest'anno, ricordiamolo, perché deve morire bestemmia il Natale di quest'anno, è perché comunque sia il Natale che il Capodanno venivano di sabato, no, di domenica. Sì, infatti bestemmia morte, quindi giusto il 26 alla fine ci hai svangato, perché insomma, se no alla fine è andata veramente veramente triste, e ci rifaremo il prossimo anno con ponti a go go. Per il resto abbiamo mangiato, sì, insomma, devo dire, ma perché il fatto dobbiamo, di non andare, perché dobbiamo fare sti, no, ma poi cioè, a me ha scritto l'amico mio, dice quell'amico mio che già da quando avevamo 14 anni che mi diceva vieni a giocare a tombola da me a 14 anni, oggi ce ne abbiamo 45. Ma io mentre conculavo a 14 esatto, anni, perché esatto, 40. Esatto, esatto. No, io saluto l'amico Marcello, gli voglio bene, però tu sai, non ci venivo quando avevo 14 anni, perché ci devo venire adesso? Che a me se c'è una cosa proprio di giocare, gioca a carte, gioca a 7 e mezzo, gioca a 7 bello, no? A merda, gioca a merda. A merda, giusto, il mercante in fiera un po' è divertente. Tu non hai capito, perché lui non ti ha detto la parola magica, oh, c'è sta, è pieno di fregna così. No, ma non, no, tranquillo, non ci sarebbe mai stato, te lo dico io. Era un problema mai passato alle origini, anche quando eravamo ragazzini, insomma, quindi lo voglio bene l'amico nostro, insomma. Vabbè, io direi mettiamo un po' di musica e raccogliamo le idee. Sì, ma andiamo a fanculo anche il Natale del 2016, perché sì, ci mancava. Ma andiamo a fanculo pure quello del 2017, che tanto voglio dire. Sì, sì, in anticipo già ci sono. Il Natale del cazzo. Lo mandiamo a fanculo subito e direi che partiamo subito con un bel brano, Alex. Che vedo in scaletta che hai messo insomma una band che non metti mai. Sì, però è un brano un po' più tranquillo. Allora, questa trasmissione è colonizzata musicalmente parlando da MDB Summer Radio. Vi consiglio di andare a cercarvela da qualche parte per sentire della bella musica. Il primo brano che ci ascoltiamo sono gli In Flames con The Quiet Place. Ma noi possiamo parlare? Quando te lo dico io, sì. Vabbè, cioè, ce l'ho. Adesso potete. Adesso possiamo. E venite da decenni. Io non so come funziona. Cos'è questa musica che mi assorda le orecchie? To try, I'm not in this tough chaos. Push the doors. Look at what was life's not bad to them. We'll be right back. Ed eccoci qua, siamo tornati, dovremmo esserci tutti, vediamo se ci siamo. Ragazzi, siete lì ancora? Io penso che noi ci siamo, tu ci sei. Che bello, che culo. Allora, questo cambio di roba al volo ha funzionato, che culo. Infatti mia madre diceva sempre: ma ce sei o ce fai? Comunque salutiamo Marco un po' di gente dalla chat, perché salutiamo il drugo Festuceto, salutiamo zio Mischi, che non so di dove sia, ma sia, penso anche lui, c'è Simone Cusella, Partenopenope, Simone Cusella, c'è anche Carmine Puccio, come potrebbe, no? Carmine Murano. Non fa niente nella vita, Carmine nella vita non fa nulla se non ascoltare i nostri podcast, le nostre trasmissioni radio live, è cintura nera dei nostri podcast. Esatto. Lui infatti è diventato così. Ascoltandolo dopo 8 di ore diventi automaticamente membro del gruppo, insomma, quindi è proprio così. Beh, diciamo insomma che ci stanno anche un certo discreto numero di play. Allora Alex, questo anno, questo 2016 che è passato, insomma, infatti che dà poi il titolo praticamente a questa puntata, è stato un anno che noi ricorderemo come l'anno dove è morta un sacco di gente, soprattutto gente che muore sempre. Esatto, dappertutto. Però sono morti, sto parlando con Alex, fai parlare anche Alex. Sono morti attori di un certo, attori e personaggi di un certo, un certo peso, però. Poi esatto, sai, quindi insomma voglio dire di una certa levatura, quindi noi però dopo poi andiamo a verificare questa cosa, perché secondo me è un po' una suggestione di massa. Alex, secondo te è un anno dove sono morti veramente tanti o è stata una suggestione di massa secondo te? Beh, diciamo che il fatto che il danno sia aperto con David Bowie, che comunque è uno dei giganti della storia della musica, non ha aiutato. Poi in realtà nel bel mezzo dell'anno un sacco di gente è schiattata, ma non, quello che mi ricordo di più è Keith Emerson, tastierista di Emerson Lake & Palmer. Però poi col gran finale sotto Natale con George Michael, la principessa Leila e la mamma della principessa Leila, cioè comunque un finale alla grandissima, per cui diciamo che è stato man mano che passano gli anni c'è sempre più comunicazione bimbo minchiosa, legacy social network, per cui qualunque cosa succeda viene comunque amplificata e iniziano a schiattare quelli che erano i miti di quelli che sono non dico i giovani, però gli adulti di oggi, cioè perché cominciano ad avere quelli che hanno 30 anni di più di noi, ne hanno 70, sono già in età pronta da, se ti sei fatto un po' di roba, secondo me ci fa un po' effetto a noi, ci fa parecchio effetto a noi, diciamo degli anni 70, che siamo nati negli anni 70, perché stanno morendo quelli che per noi erano un mito, cioè nel senso, se penso ai ragazzi di 15 anni oggi, da David Bowie, che cazzo è, cioè nel senso non è che sto vecchio, esatto, che poi tra l'altro, perché qui Marco, voi dovete sapere che Marco Guardi ha anche detto il distruggitore, le trova tutte, ho scoperto che esiste un sito che tiene la conta dei crepati, dei morti degli anni dal 2000 ad oggi, ma che si chiama precisamente catalogato anno per anno, ancora anno per anno, ma solo data per data, esatto. Con le foto e anche semplicemente con il nome, e si chiama the50sweb.com. se andate a vedere vi divertite. Esatto, che tra l'altro nel 2015-14 non è che sono morti di meno, insomma. Beh no, insomma, c'era un po' di meno. C'è un po' di meno, scorri. Nel 2016 c'è sicuramente è stata una bella rilevanza, Maria. Esatto, e questi sono a carattere, diciamo, mondiale. Non esatto, sì, poi è chiaro, qui stiamo parlando chiaramente dei top, insomma, tra i più popolari per un motivo o per una ragione o per l'altra, perché poi alla fine oddio, poi famosi, insomma, oddio, è morto Alan Rickman, punto Prince, Fidel Castro. Cazzo ragazzi, cioè è morto Fidel Castro, che non è il fatto della morte della persona, ma è da lì, è la morte di un simbolo, di un'epoca, comunque di un mondo, poi oramai è praticamente scomparso, quindi Muhammad Ali è morto. Morto Muhammad Ali. Ah, hai capito. Vabbè, però ho detto pure. Andiamo lui, a fare una conta di quelli che conosciamo, ragazzi, così ci divertiamo tantissimo. Ma anche di quelli che non conosciamo, perché magari è dietro. Beh, c'è Pat Harrington. Facciamo delle brutte figure, però, Pat Harrington, che però sotto, se voi scorrete, ti dice anche chi era. Pat Harrington, esatto. Chi cazzo è? Pat Harrington Junior è un attore di One Day at a Time. David Bowie, Alan Rickman. Bowie è stato un colpo duro, veramente. Alan Rickman, che probabilmente hanno fatto tipo la combo. Poi c'è George Gaines, che nessuno ricorderà il nome, ma era il commissario Lazard di scuola di polizia. Applauso, applausone. Aspetta, grande, che adesso facciamo grande, grande George. grande film. Grande film. Il primo poi è uno dei film che mi ha fatto cadere dalla sedia dal ridere. È vero. Ero affezionatissimo io a quel film. Bellissimo. Tutti i film, praticamente. Ma proprio personaggio. Dai, poi piano piano. Non leggerli tutti, ti prego, perché sono odiamo di bestemmi pure noi. Però Nancy Reagan anche, insomma. Nancy Reagan. E chi è? E sti cazzi. La moglie di Ronald Reagan. Che è famosa. Ma lui è morto. Ma vedo anche facce famose, insomma, che io ricordo. È morto Prince, cioè, Prince poi recentemente anche, quindi, assolutamente. E poi l'ultimo che tra l'altro Anton Yelchin, che insomma ricordiamo il nostro nuovo Chekhov, che per colpa di J.J. Abrams è morto, perché se non l'avesse preso sarebbe ancora vivo. Ma infatti sì, è morto Gene Wilder. Cazzo, Gene Wilder, il nuovo Frankenstein Junior, eccetera. Povera, abbiamo detto prima che Carrie Fisher è la madre, perché poi Zsa Gabor, chi non ricorda Zsa Gabor? Cazzo è. Vabbè, che poi diciamo una cosa su Carrie Fisher, mo Alex qui potrebbe anche un po' barcollare sulla sedia, che noi gli vogliamo bene la principessa Leila, però chiaramente noi sappiamo, insomma, che la povera Carrie Fisher, insomma, alla fine era alcolizzata. No, ma guarda, l'ho detto nella puntata di Mono insieme a tua moglie, che cioè Carrie Fisher si è fatta le peggio cose delle droghe divertenti già dai tempi dei Blues Brothers, insomma, quindi no, ma già ai tempi dell'Impero colpisce ancora, che si vedeva che lei aveva il ditino con l'unghia lunga, cioè. Quando girava Blues Brothers non riusciva praticamente a fare nulla. Insomma, cioè, no, questo è risaputo, così come appunto nel secondo film di Star Wars era comunque vestita sempre con statuta tutta impalloccata, perché chiaramente era diventata, insomma, c'aveva grossi problemi, e chiaramente nella sua vita comunque un po' dissoluta probabilmente l'esse tornata a fare Star Wars, quindi essere ritornata in un certo tipo di meccanismo, partecipare agli eventi, prendere molto spesso l'aereo, insomma, sai com'è andata? Ho di nuovo una parte, finalmente posso di nuovo cominciare a per me sarà così. Questo è uno zombie. Che poi io la ricordo anche in un film molto bello, che com'era il nome di papà. No, com'era? Il nome di papà morto. Non mi ricordo com'era. Era un film sul era la storia praticamente di sti ragazzi che venivano arrestati perché erano stati accusati di essere terroristi dell'IRA. E invece in realtà fu praticamente un abuso delle leggi speciali inglesi nei confronti di un X numero di irlandesi che erano soltanto in odore o in sospetto di avere rapporti con l'IRA, e poi lei faceva l'avvocato difensore di questi ragazzi, e poi finisce che ovviamente li scacciano. Tra l'altro una storia anche vera, e fu anche un bel film, e lei lì già trasformata, insomma, erano passati gli anni, era molto più rotonda, però insomma dimostrava comunque di avercene delle doti, se non fosse stato per il fatto che veramente è una donna che si è sfasciata da sola, ed è un peccato, perché poi alla fine c'è da dire che frequentare un film dove c'era anche John Belushi non ha aiutato. Io poi mi domando sempre, la Disney, che comunque ha preso il franchise di Star Wars, e che insomma è un po' come Nintendo, la Disney, no? La principessa deve essere tutto pulito e bello, no? Come associa, cioè, nel senso, fanno finta di niente? Semplice, basta creare un evento in cui lei muore di attacco cardiaco e via. Tra l'altro è uscito proprio recentemente il... Tra l'altro sono anche assicurati, che cazzo di problema. No, tra l'altro è uscito l'articolo sull'assicurazione, cioè sulla polizza assicurativa, no? $50 milioni. Clamoroso. Beh, ma mica sono pochi, sono abbastanza per pagare gli effetti speciali dell'attrice che sostituirà nel prossimo film, nell'episodio. Esatto, poi dopo che l'abbiamo visto oramai c'è l'abitudine di fare tutto in computer grafica, insomma, l'abbiamo già visto in adesso non mi fate bestemmiare, perché a me Tarkin ha fatto veramente cagare. Ha fatto cagare. Io lo guardavo e dicevo, cazzo, se ci mettevano un pupazzo di plastica era meglio, ma veramente tu, perché è un disturbo che c'hai tu, è già un disturbo mio. Allora chiediamo ai nostri teleascoltatori, e voi cosa ne pensate di Tarkin? Intanto noi andiamo avanti a parlare di cose, se no non finiamo più. Chiediamolo. Però allora, a questo punto, dato che stiamo parlando di morti, e la comunque, trasmissione aiuta, insomma, d'altronde la trasmissione è morti di bestemmie, non l'abbiamo citato, io Io farei un elenco, cioè abbiamo fatto un sondaggio nell'evento, ovviamente cercando di invitare anche i nostri ascoltatori a partecipare su quali sono i personaggi storici che sono morti, storici famosi che sono morti durante questo 2016. Abbiamo preso dei campioni così, e qual è quello che dispiace di più. Allora, che cosa avevamo però messo? Diciamo che prima di dire il risultato, infatti, partiamo dall'ultimo. Sembra che l'ultimo non sia stato gradito Richard Benson. Dicono, ma Richard Benson non è morto. Questo è quello, questo lo dite voi. Che pensate voi? Attenzione, perché secondo me. Esatto. Poi c'è Prince. Perché yay? Però lo so, però il personaggio su Facebook si chiama così. Secondo me hai taggato un'altra persona. Comunque, Silvana Mangano, Franco Citti, George Michael, Ettore Scola, che prende un bel voto di Giampaolo, Gene Wilder, Carrie Fisher, che ne prende ben facciamo così, moltiplichiamo per 10, per 20 voti. David Bowie prende moltiplichiamo per 100, vaffanculo. David Bowie 300 voti e Bud Spencer ne prende 7.200, cioè incredibile. Vince Bud Spencer, ma di basso poi vince. Qui però pure. Allora, posto che Drugo Le Boschi e Festuccetto dice che su Tarkin ha avuto un sussulto, ma era accettabile, dai. Qui cazzo, ragazzi, siete proprio italiani, mamma mia, allora, dai. Bud Spencer, scusa, Alex. Allora, fate una cosa. Allora, tu devi considerare una cosa, no, Alex? Che tu un giorno sei diventato adolescente e ti sei approcciato a un certo tipo di musica, ti è piaciuto, sei evoluto da un certo... Però quando eri bambino, chi era lo zio? Lo zio era Bud Spencer, che ci voleva bene a tutti, ci difendeva a tutti con le sganassoni, dai. Non ho mai vissuto questa fase qua, perché io, ripeto, credo di aver visto prima Guerre Stellari di... in gabbia fino a 16 anni. Ma no, perché allora i miei genitori, quando avevo 4 anni, il primo film che mi hanno portato a vedere al cinema non di cartoni animati è stato Guerre Stellari. E io Bud Spencer e Teresi li ho scoperti più tardi sulla Rai, su Italia 1, cioè, per cui avevo 7-8 anni. Ma come tutti, io l'ho visto al cinema. E tu sei Bud Spencer, cazzo! Bravo, esatto. Comunque considerate che Bud Spencer Carlo Pedersoli, Bud Spencer era famoso in tutto il mondo negli anni 70-80, comunque anche in Sud America era famoso. E considerate che ci sono brasiliani, ho conosciuto un brasiliano che pensava che Bud Spencer, cioè Carlo Pedersoli, fosse americano. Pensava che fosse americano. Quando gli ho detto, guarda che lui è italiano, anzi è napoletano, non ci credeva. No, non è possibile. Caso 10. È napoletano. Ho fatto vedere. Bud Spencer, ricordiamo che era campione nazionale di nuoto. Esatto. Quindi ha partecipato anche alle Olimpiadi. Quindi non era manco l'ultimo degli stronzi. Poi è successo qualcosa. Era pilota d'aerei, aveva la sua compagnia privata, se non sbaglio. Oppure c'aveva il brevetto e c'aveva l'aeroplano. E poi praticamente la compagnia d'aerei c'aveva l'aeroplano. Vabbè, no, mi sono sbagliato con Niki Lauda. Secondo me giocava col computer, giocava a Falsimoleto. Quello dell'Apple 2, però. Esatto. C'aveva l'aereo, c'aveva questa cosa che prendeva l'aereo. Guarda, facciamo così. Prendeva l'aereo. Questa cosa che mi confondo con Niki Lauda sicuramente. E poi ha iniziato a fare questi film, questi maccheroni sganassoni, che però venivano prodotti in America, sti film venivano realizzati anche in America, perché in realtà anche io quando ero ragazzino pensavo che lui fosse americano. Cioè, nel senso, sì, come no? Ma io ero ragazzino. Non hai avuto un papà che ti ha spiegato come funzionano le cose? Ma quando l'ho visto, mio padre me lo diceva. Come lo cazzo ne sapeva? Dai. Mio padre, per capire, mio padre, Star Trek era gente che si era perso nello spazio. Quindi non c'è capito un cazzo. Io per anni ho pensato. La Galattica. No, era Star Trek. Cioè, ma questi che stanno a cercare la Terra vanno in giro. No, era la Galattica quello. No, ti giuro che lui diceva questo di Star Trek. Non era ancora uscito. Era ancora anche Spazio 1999. Però. Era gente che si era perso. Quella però è la Luna che si era persa. Vabbè, fatto un po', cioè, era già più vicino quello. Che poi io me lo sono sempre domandato, ma la Luna, no? Quando arrivavano sul pianeta era intelligente. Perché ma poi facevo due giri e poi era andato. Ce l'ho qua, non va bene. Io voglio vedere il remake. Ma lo stanno facendo? Ma sì, dice Spazio 2099, la cosa 2999. Che bello, che bello, ragazzi. Non vedo l'ora di vederlo. Ma è un fan film, no? È un fanculo, no? Quello sicuramente. Sai che dicono in chat, Alex? Dicono e Carmine dice: mio padre ha scoperto che Spencer era un attore italiano molto dopo di me. Vabbè, ma infatti, cioè, voglio dire, mio padre me l'ha detto prima. Questi qui sono italiani. Me l'ha detto proprio quando ho visto la prima volta un film. Vabbè, ma tuo padre è come se veniva da te da ragazzino e ti diceva Babbo Natale non esiste, cioè che cazzo, un po' di sensibilità. Ma che sensibilità? Non è, no, che mi sta dicendo che Babbo Natale non esiste. Facile, lui, era più facile. Allora, Bud Spencer e Terence Hill sono stati antesignani anche dei chips, perché loro andavano già in motocicletta col casco, lo ricordate, la polizia americana? Io penso che siano stati dopo. Anche secondo me sono venuti dopo, se, No, secondo me sono venuti dopo. Che tra l'altro MDB, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, hanno preso a mani basse, fermi tutti, che qui c'è da ammazzare di bestemmie il remake di Chips. Attenzione. Ah, sì, ho visto. Il reboot, il remake, film di merda, a me non ha fatto schifo, devo dirti la verità. Allora guarda The Talking rifatto in 3D, adesso ti prendo, ti leggo. Ma allora, mi ha dato meno fastidio contatto quello di Aldron. Ma no, allora, ma sono dello stesso anno. Chips e Superpiedi quasi piatti sono del 77. E dai, glielo vedi, dai, sono troppe qualcosa di queste cose, sai? Troppe coincidenze. Vabbè. Al di là di tutto, Bud Spencer ha vinto a mani basse, perché Bud Spencer, come diceva anche, come ha detto anche Danilo Giardino, ma io sono d'accordo perché l'ho sostenuto sempre anch'io, insomma, è stato lo zio di noi tutti. E poi dava sganassoni a tutti. E il bello e il bello è che c'erano, cioè, le sedie che volavano, i tavolini, e tutti che andavano là gli davano i cazzotti e lui si faceva niente. Poi si girava un po' scocciato, con quell'aria un po' così, che cazzo, mo mi tocca io che so quello che ti deve menare. Fate tutto, ve lo menate, però mi tocca menate, esatto, e questo è un po', vabbè, io direi che questo, insomma, sono i morti delle bestemmie importanti di quest'anno. No, in realtà sono morti che avremmo preferito non morissero, che avremmo preferito che ne morisse qualcun altro, cioè. Cosa, è terrificante sta cosa qui, che speriamo. Richard che... Benson, ad esempio. Allora, Richard Benson è morto. Allora, fai finta che Roma non è il centro dell'universo e noi, gente stronza che abitiamo altrove, non sappiamo chi cazzo è sto stronzo. Chi è? Ma tu lo sai, che io ho conosciuto Richard Benson tramite un mio amico di Como. Cioè, tu non lo sai, Richard Benson in determinati ambienti e soprattutto per chi studiava musica era un mito, perché Richard Benson allora, diciamo, lui si spaccia per grande chitarrista metal, e dice che addirittura ha studiato in America, ha insegnato anche a Malmsteen. Quindi, cioè, non è che uno l'ultimo dei certi ruoli, insomma. E praticamente era famoso a Roma in particolare, ma questo basta che andate su YouTube e scrivete Richard Benson, ragazzi, ne trovate quante ne pare. Era famoso a Roma perché c'era un periodo in cui lui faceva una trasmissione dove faceva le lezioni di chitarra in televisione. Ma che bello! Dove lui aveva questo metodo che era la polifonica avanzata, sor cazzo, ma come si chiamava, perché non me lo ricordo bene, forse qualcuno in chat se lo ricorda, ed era una stronzata perché era un po' un cialtrone, insomma. E quando lui faceva questa trasmissione, a un certo punto, verso la fine della trasmissione, apriva le dirette per rispondere alle domande. E lo insultavano tutti. Ma Richard Benson sei un coglione, capisci il cazzo? E lui si incazzava, capito? Cioè, nel senso, una cosa bella di Pizzi chiamava anonimamente, insultava. No, io ero piccolo ancora. Allora, vi leggo la biografia su Wikipedia. Origini. Sui dati anagrafici di Richard Benson aleggia incertezza, in quanto l'unica prova a sostegno delle sue origini anglosassone e della sua data di nascita sarebbe la scansione del suo passaporto, il quale testimonia che sarebbe nata a Woking, vicino a Londra, con il nome Richard Philip Henry John Benson. Il documento è stato pubblicato dal sito Richard Warriors, che oltre a non essere il suo sito ufficiale è caratterizzato da toni e intenti puliamente goliardici. Proprio per questo da diversi anni circola una diceria secondo la quale il chitarrista avrebbe origini italiane e che il suo nome reale sarebbe Riccardo Benzoni, nome con il quale viene spesso apostrofato dal pubblico durante le sue apparizioni pubbliche. Tuttavia non esiste alcuna prova a sostegno di questa teoria. Cioè, questo è un uomo che non c'ha un'identità. Sì, no, ce l'ha ma non la dice, è bello, non si sa chi è. Comunque dalle foto veramente quest'uomo è, se non è morto no, cioè, ho visto gente morta che era scattata più in forma Esatto, adesso cioè, no, perché non ho mai visto tanta morte in un uomo vivo, sono viva, infatti sì. Perché se voi avete visto recentemente, per chi segue Richard Benson, perché insomma Richard Benson è comunque, ma che c'ho, dei cani che abbaiano, cosa sono? Teoricamente sono le risate, risate che però vengono compresse da Skype in cani che abbaiano. Può darsi che siano cani che abbaiano. Sarebbe bello, visto che tutti si lamentano del fatto che ci sono delle risate troppo alte quest'anno. Che mi ricorda una famosa partita a Dragon Age, che vabbè poi vi racconterò in altre sedi. Comunque, che stavo dicendo? Richard Benson, per chi lo segue insomma un pochino, proprio ultimamente è uscita un'intervista, una video intervista su Repubblica, dove veramente sta proprio sfasciato brutto, insomma, perché lui è una, e la sua compagna, che avrà 20 anni meno di lui, poi cioè no, forse cioè, potrebbe anche avere la stessa età, ma no, no, vabbè, lei magari è un po' meno bruciata. Non ho mai capito perché gli va dietro, ovviamente questi si sono bruciati di tutto, non so, probabilmente nella droga, non so in che cosa. Però vabbè, Richard Benson rimarrà famoso per il fatto dei concerti, che lui faceva questi concerti live dove la gente andava lì semplicemente per tirargli la merda e per insultarlo. Quindi però una volta faremo una puntata monografica, io e Marco, la chiameremo a posto di Mono, la chiameremo Moro. Moro, esatto, Moro su Richard Benson. Moro, quindi, the diciamo, same. Quindi Richard Benson non è ancora morto, ma in realtà come se lo fosse, per noi esatto, per noi è già morto, anzi è più morto lui che William Shatner, considerando che secondo me Richard Benson è anche più giovane di William Shatner. Sì, ma non si sa, perché il passaporto è fotocopiato, perché è falso, esatto il passaporto è fotocopiato. Vabbè. Niente. C'abbiamo solo questo come argomento. No, come argomento, come cacchio si chiama? Questo si chiama alcol, forse non ho bevuto troppo. No. Cioè, io metterei il brano adesso, poi passerei a... raccogliamo le idee, quelle poche, esatto, confuse che abbiamo. Ma non c'era altro argomento dopo? C'è. Sì, c'è, però mettiamo il brano, ok, allora mettiamo il brano. Sempre, questa volta invece mettiamo gli Amaranth con The Nexus, tutti in silenzio, Much good No, perché ero andato a soffiarmi il naso, perché mi stava a colla tutto. Dico, i cani che abbaiano mi sono ucciso. Eppure io. Morti di pollame, c'ha ragione, Consoli. Sto guardando Richard Benson. Cioè, ma come fai a non conoscere un mito del genere? Cioè? E siamo tornati dopo gli Amaranth. Siamo tornati. I cani che abbaiano anche. No, scusate, è che ho avuto un attimo di crisi perché ho visto un pezzo del video di Richard Benson e adesso me lo sto scaricando così ve lo posso fare sentire fra pochi minuti. Intanto, ragazzi, parliamo del prossimo tema. Sì, il prossimo tema è un tema sul quale forse avremmo voluto fare una puntata, poi ci siamo resi conto che l'intera puntata magari era un po' troppo. Però insomma, sapete che noi andiamo in giro a cercare le categorie umane che ci stanno un po' sul cazzo e che devono, secondo noi, morire di bestemmia. Con tutto rispetto, poi, perché chiaramente siamo magari per le stesse categorie umane dovremmo morire di bestemmia noi. E tra questi, insomma, possiamo mettere gli ignavi. Ma più che gli ignavi, io li definisco i mammalucchi. Cioè, quelli. Che bella definizione, mammalucchi. Mammalucco è mammalucco proprio, cioè nel senso. Vi ricordate che c'era un po' di tempo che un po' di tempo fa, non so quale ministro della Repubblica aveva detto che gli italiani erano un po' mammalucchi, erano un po' come era Ciusi, come era un po'. Quella la Fornero. La Fornero, no? Che erano un po' mammoni, un po' coglioni, insomma, no? Perché? Perché praticamente noi sappiamo che un po' per cultura, un po' per abitudine, un po' per paraculaggine esiste una categoria umana, soprattutto nel nostro paese, che a 40 anni non fa un cazzo. Ma che fino a che non fa un cazzo perché dici, sai, io non fa un cazzo perché i poletti non c'hanno il lavoro. Non fanno un cazzo, ma se la passano bene. Perché sono quelli che fondamentalmente non c'hanno bisogno di lavorare, non c'hanno motivo neanche per lavorare, e che i genitori, che l'hanno fatti diventare così perché chiaramente l'hanno messi nelle condizioni di non dover prendersi una responsabilità nella vita che è quella di lavorare, praticamente non si rendono conto che hanno fatto dei mammalucchi, cioè nel senso, perché un giorno in cui questi genitori che gli hanno costruito tutto, gli hanno comprate le case, gli danno da mangiare, gli danno da bere, gli lavano le mutande, roba del genere, a 40 anni, insomma, a un certo punto, voglio dire, il giorno in cui tu vieni a mancare, perché anche tu prima o poi morirai, anche non ti bestemmi, caro genitore, chiaramente. E anche il genitore andrà su 50sweb.com, esatto, in una versione. La versione povera. Esatto, la versione povera, no? Una versione locale, no? Perché sapete che poi ogni paese c'ha. Cioè il muro dei morti, no? Quando... potremmo fare anche noi il muro dei morti, il di Montreux, esatto. Il muro dei morti praticamente e dopo che cazzo fanno? Ma io vi dico che ci sono persone che per me è una cosa che mi fa incazzare, vorrei anche il supporto del pubblico, è che talmente che sono abituati a non fa niente che non c'hanno neanche lo stimolo, che ne so, l'interesse per una passione, cioè non guardano, non leggono libri, non hanno passioni musicali, non leggono fumetti, non fanno un cazzo, cioè, ma che cazzo, cioè, ma... E loro sono pigri. Ma so, cioè, nel senso, non so se Alex tu conosci qualcuno di questi. Sì, ma non sì. No, ma non dobbiamo far nomi e cognomi. No, cioè, no, lo so, lo so, è che ripeto, è qualcosa di particolare. E è una cosa che sta a metà strada tra la malattia e il giocarci sopra, ed è una cosa sempre un po' delicata dal mio punto di vista. Malattia in che senso? Perché se tu dici, vabbè, sono persone che hanno delle difficoltà oggettive, allora posso anche comprendere, no? Che magari c'è un qualcuno che gli sta intorno, che in qualche maniera gli costruisce non so, una sorta di benessere in modo che non ci siano mai grossi problemi. Ma qui noi non parliamo di una categoria che può avere delle difficoltà, qui stiamo parlando di persone che in generale, per essere eccessivamente viziate, perché ovviamente il problema poi sono i genitori, non si rendono conto che non gli fanno un favore, che riesce a fare una cosa del genere, e li mettono nelle condizioni di poter non avere neanche lo stimolo di provare a fare qualcosa. Perché uno dice, vabbè, ok, io che ne so, comunque sono un benestante oppure me lo posso permettere, posso anche non, cioè nel senso non dovermi spaccare il lavoro dalla mattina alla sera, però un impegno nei confronti delle cose nella vita è pure una questione di dignità, no? Poi ti deprimi, finisci per deprimere, è normale, diventi sempre più guarda pigro. Guarda che, cioè nel senso, capire che cosa è causa, cosa è effetto di depressione, no? È difficile in questo caso, mi sembra un posto più lontano da quello in cui si dovrebbe parlare di queste cose, però il grosso problema è quello della insomma, che i genitori della nostra generazione, magari quelli che hanno anche 10 anni di più, hanno affrontato secondo me delle difficoltà diverse da quelle dei loro genitori, perché fondamentalmente si sono trovati più spiazzati, non so per quale motivo, per cui hanno il loro essere veramente spiazzati dal punto di vista genitoriale ha fatto sì che la generazione che è venuta dopo, quella dei loro figli, fosse questa, una generazione di gente anche abbastanza rincoglionita per certi versi, lo dico da vecchio, ed è anche la mia grossa paura, perché fondamentalmente se io mi guardo allo specchio mi dico, ma io sarò migliore oppure creerò bimbi minchia a mia volta, altri mammalucchi oppure sono già un bimbo minchia io a mia volta, sono delle domande molto molto molto complicate, molto molto complesse, ripeto, non avendo figli non ho neanche la presunzione di dare la mia, cioè. Ma sai che io vedo un po' in giro, cioè, io per esempio vedo, le persone che, mia moglie ha un hobby, no? Che il giovedì sera va a ballare, va a fare sto corso di ballo, che è anche interessante. Io ho avuto modo di conoscere varie persone, no? Che vanno a questa cosa, poi lo dico pure a lei, cioè, mi sorprende una persona come te, comunque laureata, brillante e intelligente. E posso capire che tu lo fai perché comunque è una cosa che ti interessa, però non è che poi io mi mischio in un determinato contesto, perché il contesto è aci, amore, tesò, capito? Bella, come stai, sì, bella, fratello, aci, che dici, tesò, capito? Cioè così, no? Che e poi dopo poi sentiremo un audio, no? Perché poi dopo, non proprio a tal proposito, però insomma in un altro contesto, un audio che poi abbiamo già fatto sentire, ma lo facciamo sentire perché fa sempre bene. O ci proveremo, perlomeno. Ci proveremo, sì, esatto. Cioè, mi rendo conto che la mia generazione, la tua generazione, la nostra generazione, comunque in qualche maniera, ecco, per esempio, noi stiamo qui, stiamo a fare la radio. Già ce l'abbiamo un interesse, capito? Una passione, comunque oltre al lavoro che facciamo, un impegno ce l'abbiamo, invece c'è proprio uno spegnimento in generale, tutti sti mammalucchi che non hanno bisogno veramente di fare niente, che per spostare il piede sinistro verso il piede destro c'è qualcuno che lo fa per loro, e questa è una cosa che, cioè, devono morire bestemmie, perché un giorno, prima o poi, purtroppo la storia ci insegna, scoppierà una guerra e siamo già spacciati. Ci alziamo subito le mani. Ma su quello siamo d'accordo, che siamo già morti, siamo già finiti. Cioè, ma proprio senza tanti problemi, Perché, cioè, e noi io dici proprio, signor nemico, basta staccare la corrente, cioè, per mezz'ora già la gente va in panico. Sai? È vero. Cioè, mo al di là, ecco, mo, vabbè, lasciamo perdere quello che sta succedendo adesso nel centro Italia, perché è veramente una situazione drammatica e pericolosa. Però io lo vedo, cioè, nel senso, tu. È successo quante volte durante questi ultimi 2 anni che magari c'è quel giorno in cui c'è Facebook in aggiornamento, perché tu dici stacca la corrente, ma stacca la corrente, come posso dire, già è una complicazione, perché ti si scongela la roba da mangiare, perché c'è magari gente che c'ha bisogno di fare l'aerosol, quello che ti pare, ma io sto parlando di cose ancora più, cioè cazzo non c'è più. Dio, cioè, riesco a immaginare una vita senza Facebook. Senza Facebook. Cioè, tu immagina da domani Facebook non c'è più. Dove le metto le foto? A chi dico quello che sto facendo adesso? Esatto. E noi soprattutto, chi ammazziamo per bestemmie? Come facciamo a diffondere? Noi abbiamo il nostro sito, no? No, quindi dobbiamo organizzarci, perché domani, esatto, quando Facebook morirà di bestemmie. Esatto, qualcuno, noi dobbiamo avere un punto, insomma, dove Alex, insomma, sti mammalucchi. Questi sono i versi che mi viene da fare. No, dai, non, perché poi passo veramente per lo stronzo. È un grosso problema. Non so, veramente non so da che parte affrontarlo. Poi, però, devo dire che la gente, non tutti, alcuni, diciamo che proprio non ci mettono neanche un minimo di sforzo per. per uscire dalla condizione. È ovvio che poi da fuori tutti i problemi sembrano più piccoli, e quando ci sei dentro sembra di essere dentro una buca, però a volte il problema di certi comportamenti in psicologia è quello del guadagno secondario, è quello che appunto uno da fuori dice questo è un comportamento autodistruttivo che però ha dei suoi contraguadagni, per cui cioè, tendenzialmente per certi versi è una situazione di comodo, per certi versi sì, qui c'è Zioschi che dice vabbè più che mammalucchi sembrano zombie. Però ecco, lo zombie c'hanno comunque una passione che è quello di mangiarti. c'hanno un obiettivo. Perché poi, ragazzi, cioè, io continuo a prenderla sempre con i genitori, no? Ma tu, quando a un certo punto dici, fai un'analisi, dici, ma io c'ho sto figlio che a 40 anni non sa fa un cazzo. Ma te ne preoccupi del suo fatto, oppure è comunque il suo dover sta comodo è più importante di questa cosa? Perché io, alla fine, Alex dice. Saremo genitori o siamo genitori anche noi, come siamo rispetto agli altri genitori, ma non è una questione di mettersi a raffronto, è che quando si fa il genitore a un certo punto uno la domanda se la deve fare, non si può dare la risposta precisa dicendo sto facendo bene, no, perché non lo puoi sapere se stai facendo bene in senso assoluto, però la domanda gli sto facendo del male, perché poi questa te la devi fare, no, sto facendo del male, perché poi tu vedi sta esercito di persone che non c'hanno un cazzo da fare. Ma che poi dice, oh, però cazzarola, allora evolvo la mia natura umana. Cioè, manco quello. Dice, oh, studi, fai qualcosa, guarda dei film, un appassionato di cinema. C'è chi passa anni e anni e anni a studiare e non dà un esame. Però comunque studia, si arricchisce di studio. Esatto. Però si arricchisce, vedo gente che è sempre lo stesso esame. È sempre lo stesso, ma no, però no, si arricchisce. Lui si arricchisce studiando, queste persone ce ne stanno tanti, No, vabbè, ci sta pure quelli che lo fanno a prescindere, che comunque gli piace. Sì, no? Sì, sì. C'è sta quello che dice: non vado all'università, vado a lavorare. Nel tempo libero, magari studio pure perché mi piace o roba del genere. C'è pure gente che tu entri all'università, il primo giorno all'università ci sta gente lì nel ladro che gioca a carte, e quando tu sei laureato stanno ancora lì a giocare a carte. Perché? Però ribadisco, è sempre il perché, no? Nel senso, c'è sempre quella fetta di popolazione che è avvantaggiata dal fatto che evidentemente non ce l'hanno bisogno, cioè è tutto là il discorso. E non è una questione di invidia, cioè, vabbè, là tu stai rosicando perché quelli possono, tu non puoi. Cioè, no, e si tratta proprio di dare un contributo alla tua stessa esistenza. Cioè, voglio dire, io c'è stato un periodo in cui non ho fatto un cazzo nella mia vita perché magari non stavo bene con la testa, roba già, ma me la sono vista come una situazione negativa, non me la sono vista come una situazione positiva. Cioè, non è che poi me la sono presa con qualcuno, è colpa di qualcuno se la società mi ha fatto diventare così o così colà. Cioè, a un certo punto ho preso e sono ripartito per una certa strada, un certo obiettivo. Vedo che questo è l'argomento, però sì, mi interessa. Sono anche cose che forse non è il caso di ripetere. Insomma, potremmo avere dei piccoli problemi con i tetesserati. Però insomma, alla fine è meglio andare oltre. Però vabbè, ok, vabbè. Chi vuole, tu vuol dire, ciao. Ma esprimi una tua considerazione finale, così li ammazziamo. Io penso che siano tutti utili. E poi anche, sono altri argomenti. Anche le zanzare. Quindi, a modo loro sì. Anche gli zombie, anche i mammalucchi sono utili, perché sono carne da macello per morti di bestie. Ecco, per esempio, ci hanno dato da parlare, c'è sempre una loro utilità, anche le cose che sembrano inutili si possono in qualche modo riciclare, cioè molto da imparare dal mammalucco, secondo me. Bene, io a questo punto darei. Che c'è un brano? C'è un grande. No, un brano non credo. Sì, ci sia. Sì, c'è un brano. C'è un brano? C'è un brano. C'è un brano a sorpresa. C'è un brano a sorpresa che ci presenta allora, Alex. Questo lo voglio annunciare io, scusate, perché voi sapete. Non sai qual è. Non c'è il titolo, Alex. Aspetta, il titolo è. Aspetta, che ve lo scrivo e copio in colla. Scrivicelo, perché... vabbè. Comunque, stiamo per presentare un lavoro di un grande. Stiamo per presentare un brano importante di cui noi, insomma, ci siamo diverse volte cimentati a dover discutere e affrontare. Premette un brano di una persona che abbiamo celebrato pochi minuti fa e che ci piace ricordare in questo modo. In questo modo, esatto, cioè perché. noi lo diciamo sempre, io lo cito sempre, lo cito quando sto in chat che ascolto Summer Radio mentre Alex lo fa, e soprattutto lo metto sempre nei sondaggi, perché Richard Benson merita sempre di essere messo nei sondaggi, e non importa che brano è, ma ascoltatevelo, perché si chiamano Le Grida. Esatto, Le Grida di Richard Benson. Siamo andati all'indietro e poi tutti gli altri squallidi. Bene, bene. Squallidi. Bene, benissimo. Buono. Ma perché cazzo ci sei ritornata? Ma è l'inizio della fine. Un applauso. C'è la voce, sì. Però, Non è roba per me. Non è roba per me. Sì, però c'è Richard Benson, un cazzo di Riccardo Benzoni tutta la vita. Un pollo! Possiamo sacrificare questo pollo a Satana! A Satana! Nel Natale del male! Non quella merda! Si sia tranquillo, perché abbiamo fatto una selezione musicale altissima. Lei sa, queste sono canzonette da balera, da sagra dell'uva, da feste condominiali, da feste di piazza. Hai capito? Ti vorrei vedere suonare Liberi in cantina. Ma se è quello della settimana scorsa. No, no. Questo. No, Benzo. Lasciamo la strumentazione. In cantina. In cantina! Allora. State pigliando per il culo! Sono qui. E le prometto. Non la. Che neanche sono rappresentato. Basta! Che mamma che io ho detto. Grazie di scappare da me. Io non mi sono sempre domandato come ha fatto a non morire prima. Ma sì, ma infatti c'è un'altra che uno che urla così, cioè vivi la metà del tempo. Esatto. A me fa paura quando fa così. Ultimi! Buono, dire. Schifosi! Schifosi! Ultimi! A quello che dico io! Gente, che lo insulta! Ho suonato 12 ore al giorno per tanti anni. È una vergogna! Così, con questa tecnica, con tutta sta roba di là addosso, li mortacci vostri, schifosi, schifosi! Perché non sono a Roma, è stato a Roma in quei tempi, sarebbe stato bellissimo. Ha ha ha ha ha ha! Ed è finita così, il capolavoro assoluto. Sì, sì, è il grande dei grandi. Secondo me gliel'abbiamo tirata comunque. Dice Benzo, non arriverà. Secondo me domani mattina lo troviamo. Troviamo il necrologio. Va bene. A questo punto, io basta ripartire. Se abbiamo insomma l'apposito gingolino. La nostra seconda rubrica, che è la famosa rubrica, insomma, una, anzi, la prima rubrica che ci abbiamo avuto in morte. Ci ha fatto venire in mente tutto. E che è il sangue del tapiro. Ok, sapete che il sangue del tapiro è la, cioè, la rubrica dove noi... Parla piano, perché queste cose non ne devi sapere nessuno. Queste, purtroppo, sì, noi l'abbiamo già fatta sentire però sta cosa, però vabbè, falla partire, anche se non la sentiamo, diciamo. Spieghiamo, prima di tutto spieghiamo, perché... può succedere, no, spieghiamo dopo. Ci hanno detto che in realtà i terroristi non sono così cattivi. No, infatti c'è pure quello buono, c'è gentile. Non sono buoni, sono riconoscenti. Esatto. Ma per questo ci hanno fatto, abbiamo fatto un'intercettazione e ve la facciamo sentire, spero, adesso. Vediamo se si sente. Allora, Alex, faccio un audio velocissimo. Perché una cliente qui al negozio, mi è successo questo fine settimana, al centro commerciale, passeggiando, si è praticamente un uomo gli è andato addosso, sai, quando ti intruppi spalla a spalla così, e nel tamponamento, diciamo così, gli sono cadute le borse, le buste, queste cose così che aveva, e chiedendogli scusa, aiutandolo a raccogliere le cose da per terra, e mortificato a un certo punto gli faceva: no, mi dispiace, come posso sdebitarmi? E lei insomma gli ha detto: ma guarda, non è successo niente, quindi non ti devi sdebitare di nulla, cioè, uno raccoglie e finisce la storia, no? E lui ci ha pensato un attimo, gli ha detto: vabbè, facciamo che per sdebitarmi ti consiglio di non venire, ti dico di non venire il 22 qui nei pressi di Porti di Roma, di nazionalità araba lui. Quindi, ragazzi, io non lo so se credere a tutto ciò, però fatto sta che questa cliente l'ha detto a noi e io lo sto a girare a tutte le persone care, ovviamente. Hai capito? Che storia, mamma che mia storia. C'ho la pelle d'oca. C'ha la pelle d'occo. E perché il sangue del tapiro è la rubrica dove girano le leggende metropolitane, ma non so leggende. Però questa l'abbiamo già fatto sentire nella puntata col terrorismo, c'era pure Alex. E l'abbiamo già commentato poi fondamentalmente, perché queste sono quelle cose che girano su WhatsApp. Dove, perché l'avete sentita la tizia, no? Dice: io non so se è vero, cioè lo sai benissimo che non è vero, no? Però sono stronza e razzista. Non è vero, ma e quindi credo. Lo condivido, perché alla fine è questo. E la cosa fantastica è che il terrorista, che notoriamente va in giro così per negozi. No, perché lui va a vedere dove farsi esplodere. No, non è capito, lo deve vedere. Non stare lo stesso andiamo posto, a piar no. coso prima che lo famo saltare, perché mi serve proprio quell'oggetto lì. Ah, esatto, mi serve da comprare il giaccone nuovo prima che lo famo esplodere. Perché sta disardi, poi domani schioppa qua, non ci sta più niente. E allora il terrorista che va addosso alla signora e poi si dispiace. Dice: sì, è vero, sono terrorista, mo domani ammazzo da 50 persone, però puretta signore, gli sono cascati i vestiti per compagnia. Mica sono stronzo. Esatto. Io che so di nazionalità araba, famosa nazionalità araba, perché importante. Cioè, è come se noi siamo dell'Arabia, che no? Ne so, di nazionalità europea. Europea, cioè sì, ma già tanto nazionalità europea. Non siamo, no, nazionalità cioè, caucasica. Siamo, esatto, caucasica, bravo, esatto, era quello che stavo cercando. Noi siamo di nazionalità caucasica, lui è di nazionalità araba e gli dice: no, non ci andate lì. Perché no, non ti dice perché, giustamente. Perché, lo devi, però siccome che lui è arabo, non è che ti ha detto non ci andate lì perché, che ne so, è chiuso. Cioè è arabo, quindi è automatico il fatto che lì non ci dia andare perché io sono terrorista. Cioè, che faccio schioppare tutto io qua. Di nazionalità araba. Insomma, la mia nazionalità araba me lo impone. Allora, la cosa, noi abbiamo già parlato di questa cosa, ma anche su Morti dei Bestemmi, il fatto che girano ste merdate, no? Cioè, nel senso che internet ha amplificato, no? Il giro di ste bufale. Che poi Alex l'altra volta, che hai detto, come ti sei espresso l'altro giorno Sono stanco. Sì, sono stanco, ero stanco, sì, sì. Sono stanco perché già era impegnativo il tema, no? E di quando senti sta cosa e dici, vabbè, ma... Adesso, no, voglio dire una cosa, non so se vi ricordate, questa è una cosa molto lontana nel tempo, tantissimo tempo fa, che tempo che fa, da Fazio, si alternavano una volta la Littizzetto, una volta Antonio Albanese, presente? E lui faceva il personaggio di Cetto la Qualunque. E sono state lui ovviamente c'è da qualunque candidato con un partito di quelli che appunto la faceva facile, no? Più pilo per tutti, che in realtà appunto non è molto diverso da quello che ha detto Trump, solo che ha detto più pilo per me. E c'è stata la volta che appunto le elezioni ha rivinto il partito del pelo vero, cioè quello del diciamo. E lui ha iniziato a fare il suo sketch, a metà dello sketch si ferma e dice: no ragazzi, non ce la posso fare, e comincia quasi a piangere, si spoglia, si toglie tutti i vestiti e la sua spalla comica va lì e dice: no ma dai, quest'anno era impossibile vincere, non potevamo farcela, no non ce la posso fare. Era uno sketch molto divertente, era preparato, non era fatto così, però fatto in quel momento è stato veramente un momento utopico, perché come dire, cioè, non ce la possiamo fare, cioè noi possiamo sbatterci e la realtà batte la fantasia, la realtà batte la fantasia, e ripeto, io non sto dicendo è giusto, è sbagliato, è bello o brutto, però per certi versi, cioè nel senso, basta un minimo di neurone, cioè nel senso, e non bisogna essere ignavi anche dal punto di vista neuronale, e questa cosa, questa cosa qua che gira, che giustamente gira, perché qualcuno che trolla, io non ho mai capito il perché uno lo debba fare, però e poi anch'io mi domando questo, cioè mo al di là del dispetto che tu puoi fare a un'attività commerciale, no? Perché la gente è strozza, cioè nel senso, uno non andà lì al ristorante da Peppe perché so l'altro giorno ci ho visti i sorci. No, lo posso capire. Ma quello lo posso capire anch'io, infatti. Cioè sei un pezzo di merda, però lo posso capire. No? Ma qui tu stai a fare una cosa che è talmente generalizzata, talmente grande, che qual è il tuo obiettivo? Cioè, qual è lo scopo? Oltre a me viene da dire il mero razzismo, no? Perché mi viene solo da pensare a questo. Capito? Cioè, nel senso, comunque questa voglia di doversi differenziare, che cioè, capito? Di identificare il nemico, il insomma, un discorso del genere. Ma secondo me non è tanto quello. Secondo me è solo il fatto di fare rumore. È lo stesso di quelli che pubblicano sulla bacheca di Facebook. Io non voglio che Facebook legga le mie cose, oppure sì, certo. Sennò diventa pagamento. Tutti saranno a pagamento i WhatsApp. Esatto. Oppure cercasi sangue di questo gruppo. Gruppo sanguigno, telefonare al. Non c'è nessun motivo perché questa cosa succede. Cioè, nel senso, non è che lo fai per fare gli scherzi o cose del genere, lo fai per fare rumore. E non so che ti. Ripeto, dal punto di vista psicologico, ma è un mio limite, non so cosa ci si possa guadagnare, però sicuramente qualcosa. No, ma ci guadagna. Neanche io lo capisco come tipo di cosa, però la cosa che è veramente più inquietante è il fatto che la gente pie e condivide, cioè prescinde, capito? Ma neanche lo guarda. Infatti, io passerei al secondo audio a questo punto, se ce l'hai pronto, perché? Perché senza dover scomodare la politica di alto livello, no? Cioè quella la politica top class. Cioè, in realtà oggi funziona veramente così. Ed è la cosa drammatica: il fatto che oggi il primo. Oggi ci sono gli strumenti, quindi il primo che si sveglia strilla su internet la gente. Qualcuno che ti condivide, che poi diventa più di qualcuno, che diventa un treno, no? Diventa un virale, diventa quello che cazzo ti pare, lo trovi sempre. Il problema è che la politica, invece di limitare questa situazione, cioè nel senso, vabbè ragazzi, distinguiamoci, no, da questa situazione, in realtà alla fine fanno tutti così. Cioè oggi tu vedi, che ne so, il tizio che va con i dopo sci alla trasmissione politica per far vedere che lui, che dopo non ammazzano le bestemmie, quell'altro che fa il comico che poi improvvisamente diventa un politico. Ma chiunque, non è che adesso non vogliamo prendere, cioè veramente io in questo momento non c'ho una visione positiva di uno piuttosto che di un altro, per me è in generale, però che cosa è diventato oggi internet? La diffusione del messaggio del terrorista di nazionalità araba, oppure il tizio che ti dice: ma dove sono andati a fare? Ecco, sentiamocelo, perché così almeno ce ne rendiamo conto. Se poi... questo lo puoi fare tu? Qual è dei due? Il vecchio. A tutti, ciao, buongiorno. Allora, oggi pare che la neve ci ha dato la tregua e però naturalmente è arrivato il terremoto. Io dico una cosa, no? Abbiamo precisato, questo è già stato su YouTube da tempo. Un po' di amici nostri sì, che stanno ancora dentro i container, dentro i camper, perché stanno veramente nella merda. Che cosa è successo? È successo che stanotte ha nevicato tantissimo e hanno dovuto fare i turni per spalare tutta la notte. Noi non ci siamo potuti neanche andare a raggiungere un po' di amici perché avevano paura che gli cascasse il tetto dello camper sulla testa. I moduli abitativi ancora non sono arrivati, gli animali stanno morendo, io sto parlando della provincia di Macerata, tanti agricoltori sono stati costretti a vendere gli animali per poter aggiustare i capannoni, i soldi non sono arrivati, l'umessaggino, quello che dovevamo mandare noi, non l'abbiamo mandato, i messaggi, abbiamo mandato i soldi, che cazzo di fine hanno fatto i soldi? Di cosa parlano i telegiornali questi giorni? Di cosa stanno parlando? Del decreto salva banche. Il governo sta stanziando 20 miliardi per salvare le banche, che sono quelle che hanno ammazzato e hanno mandato in rovina un sacco di italiani. Ma c'è state a piappa il culo! C'è state a piappa il culo! No, c'è state a piappa il culo! Qua ci sono questo sta storia, la vada un sacco metri di, tempo, di neve! Ci sono posti che non sono neanche raggiungibili dall'esercito, dalla protezione civile, dai vigili del fuoco, non sono arrivati i moduli abitativi, non sono arrivati i soldi per aiutare i terremotati, ma che cazzo volete? Cioè volete ammazzare? Volete che il centro Italia sparisca? Merde, merde, merde, merde, siete delle merde, dove stanno i soldi che abbiamo mandato noi col telefonino e col telefono i messaggi, eh? Dove sono andati a finire? Non dovete fare in modo che questo video lo veda tutti. A me non me ne frega un cazzo, bloccatemi, segnalatemi, fate come cazzo ne fate. Noi ci siamo rotti i coglioni di essere presi per il culo. Avete capito? Non vogliamo più essere presi per il culo. Vaffanculo a tutti. Vaffanculo a tutti, governo di merda. Rottura piove, di cazzo. Governo di merda, sì. No, ma poi questo qua sta su internet già da un pezzo. Ogni è volta il conquista proprio sì, di no, quelli. Questo è proprio quello che va su YouTube per cercare di essere indicizzato. Perché ogni volta prende però qualsiasi tipo niente, di pretesto. Però no, non gliene frega niente. Lui prende qualsiasi tipo di pretesto e comincia a farsi discorsi che iniziano così piano piano. E poi comincia a strillare parolacce. Che è tipico, perché oramai lo fanno tutti sta cosa. Quindi questo è un cialtrone come tanti. Tra l'altro, se vedete il video, lui sta in un campo di neve ovunque, tranne che dove ci stanno i problemi, chiaramente, perché è chiaramente, cioè non è, però ho visto altri video di questo sempre e tutti a condividerlo su WhatsApp, tutti ecco c'ha ragione, dove sono andati i soldi, governo ladro, le salva banche, queste stronzate, capito? È la stessa cosa te, cioè bisogna far fallire anche le banche nel popolo dei mammalucchi. Lascia perdere, poi non è che io difendo il decreto salva banche, no, sei chiaro. Però cioè, facciamole fallire. Cioè, è il principio, capito, di dove fa scambiare. Perché sa, perché tanto la gente non capisce un cazzo. Cioè, e questo è il mammalucco, è anche questo, no? Quello che prende. Fammi capire che ha detto questo. Perché tu te rendi conto, e questo è passato dai moduli abitativi, no, anzi, dalla gente c'era paura che gli cascava il tetto del camper, non si sa per quale ragione. Per la tanta neve. Ai moduli abitativi, al segreto salvabanche, a merda, merda, merda, merda. Dove cioè, stanno i soldi del telefonino? Esatto, del telefonino, esatto. Cioè, Alex, tu lo conosci sto tizio? No, grazie a Dio non lo conoscevo, ma perché io ho praticamente quasi disinstallato WhatsApp e soprattutto ho disinstallato le persone che usano WhatsApp. Ma io divido le persone in quelli che usano WhatsApp e quelli che usano Telegram. WhatsApp lo uso essenzialmente solo per due persone che per qualche motivo loro non si arrendono a prendere una cosa migliore. Per cui considero WhatsApp una sorta di stregua, la stregua del gruppo WhatsApp è il bimbo minchismo elevato all'ennesima potenza. Considera un po' le cose che compra Facebook, si compra Instagram e diventa una merda, si compra WhatsApp e diventa una merda. Dovremmo fargli comprare qualcos'altro che diventa una merda e scommetterci sopra. Detto questo, ripeto, queste cose non mi arrivano. Questo qua fa il suo dal suo punto di vista. Lui trolla anche lui e lo fa per guadagnare in condivisioni, like, eccetera, eccetera, eccetera, per avere più forza sul suo canale. Ma è una cosa banale e tra l'altro se lo fa, non credo che faccia 40 milioni di visite. No, no, però c'ha le sue belle visualizzazioni, perché comunque questo tra Facebook e YouTube comunque alla fine ce l'ha la sua. Mo poi dopo vado a controllare, però adesso su due piedi non te lo so dire. Condivido in parte quello che dice Luca, perché lui dice ma è peggio lui o quelli in mezzo. Assolutamente, tra l'altro Luca non ti conosciamo, ciao, piacere di conoscerti. Piacere sì, no, assolutamente è peggio quelli che mettono i like, perché lui getta l'amo. E lui, fa, lui fa casino, esatto. Lui fa casino, è come il solito discorso del fatto che chi è peggio il mago che fa la fazione d'amore, esatto, oppure tu che gli dai 300 milioni di dollari per averci la pozione d'amore, cioè io non ti so rispondere oggettivamente, non dico che è meglio una cosa piuttosto che un'altra, perché comunque lui che fa il buono e fa fede sulla buona fede appunto della gente ignorante, perché la maggior parte della gente condivide con ignoranza. E comunque è un balordo, perché comunque lui con sta cosa ci alza l'umore, se non ci alza soldi ci alza comunque l'umore, perché poi da quello che ho capito, poi veramente la prossima volta mi voglio documentare bene, penso sia pure un mezzo comico tra l'altro pure questo, quindi è comunque un personaggio conosciuto nel maceratese, insomma non è l'ultimo dei coglioni, cioè è l'ultimo dei coglioni ma non è proprio uno sconosciuto, insomma. E se quelli che fanno i like perché per la stessa ragione che lo fanno con altre cose. Sono d'accordo anche con quello che dice Zioski in chat, però non è una giustificazione, forse è più il contrario, lo fanno i politici di oggi proprio perché vedono che funziona, capito? Invece di distinguersi appunto da quello che dicevamo prima, lo fanno perché... Invece di costruire, basta, esatto, distruggere, cioè, più facile. Così facendo si diventa primo partito in Italia, per cui tra l'altro è un'ottima strategia, quello, funziona benissimo. No, da domani infatti anche noi morti di bestemmie. D'altronde già abbiamo il nome, inizieremo morti tre di minuti, bestemmie. Esatto, inizieremo tre minuti, merde, cioè, merde a tutti quanti. D'altronde Sgarbi è diventato famoso con questa storia, cioè, capre, lui con capre. No, lui all'inizio capra era vecchio. Lui quando Costanza aveva tirato fuori dava dello stronzo e delle puttane a chiunque, insomma, quindi. Vabbè, io a questo punto, prima dell'ultima sezione della trasmissione, lancerei uno spot pubblicitario, Alex. Ok, lanciamo lo spot pubblicitario. Molti pensano di espellere troppo gas quando in realtà rientrano assolutamente nella media. Sapevi che da oggi puoi sfruttare questo disagio? Presa per il culo è quello che fa per te. Grazie ad una ventola interna azionata dal tuo innocuo peto, puoi produrre energia per ricaricare un cellulare e attivare una lampada. Avevo grossi problemi di spelletamento, ma poi leggendo un aforismo ho avuto un lampo di genio. Trasforma le tue debolezze in punti di forza. Prima quando leggevo un libro e faceva buio dovevo alzarmi al divano per accendere la luce. Adesso mi basta montare soffici ripeti e la lampada mi va a effetto strobe. Va via la corrente e non sai più come frullare? Prima di scoprire presa per il culo spesso andava via la corrente elettrica. Per ore non riuscivo a preparare in tempo il pranzo o la cena per i miei figli e mio marito. Adesso grazie ad un leggero sforzo mi parte un peto che aziona il mio frullatore. Lo consiglio a tutti. Tuo marito è a casa con gli amici e stanno guardando la partita quando all'improvviso va via la corrente? Senza paura, signori, si possono azionare tre prese per il culo e come per magia... Io ve lo dico solo che questo stava nello stesso gruppo WhatsApp di quello del terremoto, quindi insomma è tanto per farvi capire. Ma sì, ma perché il fattore è lo stesso, anche perché poi tra l'altro, a parte alcune cagate, la maggior parte delle persone non va oltre i 15 secondi del video. Per cui, cioè, ripeto, condividono così a cazzo, fanno like a cazzo. Io ho fatto un esperimento, sto mettendo ultimamente dei video su Instagram. Io faccio dei video in computer grafica, degli esperimenti li metto su. Ricevo, e poi ci metto un po' di tag, tanto per, ricevo tipo 50 visualizzazioni, 100 like. E dici, ma c'è qualcuno che ha fatto like senza neanche vederlo sto coso. E che cosa significa? Che cosa vuol dire? E, tra l'altro io non compro like perché non me ne fregavo assolutamente niente. Cioè, non c'è più neanche una sorta di voglia di capire che cosa si sta facendo. È un discorso da vecchi, sono un vecchio, va bene, sono un vecchio, non me ne frega un cazzo, va bene così. Però possiamo dire una cosa, e questo l'abbiamo comprovato anche nella puntata che abbiamo fatto di Multimanie, l'ultimo episodio, che insomma ve lo cercate tra gli speciali di Runtime, ascoltatevelo. Tremors Conspiracy. No. Multimanie. L'ultima puntata di Multimanie che abbiamo fatto con Luca Casciola e Gianni Aureli. E io dico solo una cosa, i rutti e scureggi vanno sempre lì. non c'è niente da fare. Come li metti, li metti, i rutti e le scuregge fanno sempre ridere. È oramai una cosa che noi sappiamo. Ragazzi, e anche noi che cerchiamo di essere un po' più evoluti. Ci sono state decine di migliaia di anni di evoluzione. Esatto. Cioè, secondo te, ruttare e scureggere, ma a che serve? Esatto. Serve per creare una certa armonia, esatto, e mettere, esatto, di buon umore le persone. Esatto, esatto. Secondo me, cioè, vedi, io... tu ecco arrivi, no, 2000 anni di storia, i romani, impero romano, la civiltà, la tecnologia, siamo andati sulla luna, poi arriva il Baro d'Italia e te via da lì, e tutti condividono è la stessa cosa, perché io comunque non l'ho condiviso sto video, chiaramente, però devo dire che mi ha fatto ridere. Cioè, sì, sì, non posso dire che non mi ha fatto, cioè, anzi, ho trovato più divertente questo che quello merda, cioè, voglio dire, è quello che mi intristisce, capito? Va bene, io direi che allora il ridateci il tempo perduto, possiamo pure spostare la prossima puntata. Sì, così magari finiamo di vederlo. Esatto. Però non facciamo spoilers. Attenzione. No, non lo facciamo spoiler. Andiamo. Ce ne sarebbe un brano, non so se è il caso di. Così andiamo con l'ultimo brano, così c'è l'ultimissima cosa. Così poi vi lasciamo andare a dormire perché c'è la posta. Ma non la posta che vi aspettate voi, ma la posta, insomma, la posta dell'amore. Quindi, Alex, vai con l'ultimo brano. Direttamente dal metal più divertente, dal new metal, che Switch and Engage con In Due Time. Facciamo un altro bel applauso finto ai Killswitch Engage. Dai, questi cani. Hanno i cani, sono risate. Sentiamo i cani. Ecco i cani, ecco i cani. Vabbè, allora ragazzi, prima di lasciarvi con i fantastici sondaggi che poi Marco insomma vi... Tra un po', sì, sì, bellissimi sondaggi. Vi delizierà, cioè ovviamente come sapete, ecco, io adesso farei partire tipo un jingle porno, non so, una cosa... Non ce l'ho il jingle porno. C'è tempo, c'è tempo. Ce l'hai? Fatelo voi adesso, poi lo metterò a posto. Oh, dai, l'ho posto. Ma quanto ci amiamo. Ma che cos'è? Cioè che Beh, pure in parte utile. Vabbè, la posta dell'amore di Marco. Allora, io ho praticamente ricevuto. C'è pure scritto, non c'è il jingle. Non c'è il jingle. Ma il libero sondaggio? dopo. La chiusura a questo punto. Tranquillo, sì, perché noi stravolgiamo le scalette che noi stessi facciamo? Sì, lo chiudiamo. C'è una veloce, bestemmi, saluti e dici tu sondaggi. Sì, ma perché si spostano? Non lo so, perché tu te vai i cazzi tua. Io non tocco niente. Allora, mi è arrivata giusto appunto. Basta, Alex, basta spostarci le cose. Scusa, io l'ho messa giù apposta. Perché li metti su? Dunque, allora, praticamente mi è arrivata una mail. Mi è arrivata una mail sempre dalla. E le famose lettere d'amore che ti arrivano? Sempre Svetlana? No. No. No. Vado a leggere. Vai a leggere. Che non è un errore. No, ma è proprio così. Ma salute. Salutano tutte, salute. Salute. Voglio parlare un po' di me. Il mio nome è Lyudmila. La mia età di 35 anni. Io sono una donna che conosce il valore di un rapporto forte. Sono tipo interessante, gentile e simpatica. Mi prenderò cura di te e proteggere voi calma. Già mi sento meglio da poi. Ho un carattere forte. Questa di meno, Questa di meno, infatti. Sto cercando, ho bisogno di un uomo amorevole, affidabile, che mi può accettare per quello che ho. E quindi qui mi comincia a preoccupare. Che cos'ha questa? Questa c'è niente. Qui non c'è niente. C'è niente. Sto cercando, ho bisogno di un uomo amorevole, affidabile, che mi può accettare per quello che l'ho già letto. Già l'hai detto. Sto cercando un uomo gentile, onesto, che sarà il mio amico, marito e amante. Tutto. Proprio, tutto deve essere. Proprio più amico. Più amante per ultimo. Dopo. Con un cuore puro e un'anima generosa. Attenzione, quindi anima generosa, Voglio creare una casa accogliente ed una famiglia forte. Cioè, questo è proprio quello che è forte. Vedi, forza, sovietici, vedi, sovietici, forza, Putin, il sovietico. Ho bisogno di un uomo che sa chiaramente quello che vuole nella vita. Chi è pronto per una relazione seria è pronto per iniziare una famiglia. Giusto, no? Ma certo, perché... Non voglio giocare i giochi, sono davvero pronto a dedicare la mia vita al vostro amato. Ma l'amato di chi? Non lo so. Sono pronta per un incontro reale. Sei pronto per questo? Sei pronto? Sei pronto? Tu sei pronto? No, vediamo. Te l'ha scritto? Non lo so, mi sta preoccupando. No, non me l'ha mandata. Però ho intenzione di aspettare per voi lettera nel mio indirizzo email. Lyudmila affettuoso. Affettuoso? E qui capisco perché è forte. Lyudmila è un po' come ecco perché, ecco che cos'ha. Ecco, dice, accettare quello che ho. Ho capito che amo. Capito. Questo, no, questo io non gli scrivo. Io non gli rispondo a questo. No. Va bene, ragazzi, prima di salutarvi abbiamo. No, beh, una cosa la racconto. Le mail di spam sono sgrammaticate apposta in modo che ci cascano soltanto quelle che non capiscono bene l'italiano. Cioè, loro dicono: se uno un pochettino lo sa. Praticamente magari se inizia a interagire con noi ci fa perdere tempo, invece visto che pescano a strascico e vogliono pescare proprio gli strati più bassi della popolazione della popolazione acculturata, vaffanculo. Ok, ma cioè voglio dire, qual è lo scopo fondamentalmente? Farsi dare dei soldi probabilmente. Tu manda a me 50 milioni di soldi, io venire lì a fare pompino. 1500 euro, vengo lì a fare pompino. Qualcuno lo fa, sicuramente. Io conosco gente che l'ha fatto. Tu l'hai fatto? No, non l'ho fatta, ma conosco gente che l'ha fatto. Ahia, bisognerebbe invitare la trasmissione. Secondo me ci verrebbe anche. Guarda un po', va. Poi sicuro. Ma vabbè. Comunque, andiamo con il chiudiamo perché noi da liberoquotidiano.it, praticamente il sito nel quale voi non dovrete mai andare, perché è un clickbait della Madonna, ci sacrifichiamo noi per voi. Esatto. Ci sono questi interessantissimi sondaggi. Però aspetta, prima di leggere i sondaggi, io la domanda ti faccio: ma secondo te la gente risponde ai sondaggi? Sì, oh, yeah. Pure copiosamente. Sì, c'è anche chi li bestemmia, però giustamente facendolo cade il loro gioco. No, esatto. Cioè, voglio dire, ora che ci sei andato. quando andate all'IKEA col vostro partner, voi litigate furiosamente? Sti cazzi? Ah, ma stai domanda a me? No, questa no, lo mandano a tutti. Ma io li dico prima di andare all'IKEA, perché. Da 1 a 10, quanto vi dà fastidio il burka sulle donne? Se ben visto questo. Quanto? Chi ha vinto? Non lo so, non devo aprire, dopo clickbait, okay, clickbait, attenzione. Okay. Voi invidiate la vita a Santo Domingo del signor Bruno? Che cazzo è questo signor? Chi è il signor Bruno? Mi perso. Che cazzo lo so? Che cazzo me ne frega a me? Secondo voi nell'hotel Rigo Piano troveranno ancora qualcuno vivo? Cioè, questa è squallida, ragazzi, questa è squallida, è anche per Libera, è squallida. Questa è forte, scherzissimo. Sì, squallidissimi. Il prete coinvolto nelle orgie, pregate per me, voi lo farete? Secondo voi, questa è veramente culturale, secondo voi Melania Trump è davvero innamorata di The Donald? Chi può dire? È importante, anche questo è invece un sondaggio geopolitico. Dopo la disgrazia del Ricopiano, perché tiene banco Ricopiano, avrete più paura di andare in montagna? Vabbè, io direi che può bastare così. Quindi intanto ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla chat, che siete stati vivaci, questo ci ha fatto piacere. Ringraziamo anche i numerosi ascoltatori che sono stati pazientemente fino adesso con noi. Ricordo che www.runtimeradio.it è il sito dove poi piano piano lo svilupperemo, insomma, dove potete sentire ogni giorno le nostre dirette, insomma, il nostro streaming più le trasmissioni live, appunto, che facciamo la sera. C'è ovviamente anche la pagina Facebook Runtime Radio, quindi cercate, fate mi piace. Ultimamente sta, tra l'altro, insomma, stanno arrivando un numero di mi piace anche eccessivi, insomma, non capisco da dove arrivano. Fermate, esatto, basta, ci fate paura, no? Noi dopo abbiamo paura che black. Secondo voi i jingle che ci arrivano sono fedeli o infedeli? Esatto. E poi cercate ovviamente tutte quante i nostri gruppi. Per ora, insomma, i gruppi d'ascolto sono Runtime Hit, che è per le trasmissioni informatiche, Runtime Music, che sono per le trasmissioni musicali, tra le quali ovviamente c'è anche MDB Summer Radio, che insomma sentite sempre Alex, buon lavoro, via dicendo. E poi c'è Run Playtime, che sono ovviamente il gruppo d'ascolto per le trasmissioni. A me Run Playtime mi fa sempre roba porno, però. Playtime, mica era un giornale buono. O perlomeno erotico. Che era Playboy, No, quello esatto. Sì, ma c'era anche Playtime. No, c'era Playtime non ho mai sentito, c'era Jim Fitz. Secondo voi Playtime era un giornale buono oppure per pregare? Va bene, e, insomma, cercateci su Facebook, sui social, veniteci a trovare, suggeriteci come sempre, insomma, anche idee per le prossime puntate di Morti e Bestemmie. Vi promettiamo, cercheremo, insomma, di essere almeno, insomma, di tornare almeno una volta al mese, come facevamo una volta col Marchese. Saluto e ringrazio Marco Gualdi. Vi saluto e lancio un ultimo sondaggio: volete più o meno scorregge nelle prossime puntate di Morti e Bestemmie? Più scorregge sempre. E i cani? I cani, volete i cani? Volete i cani? Saluto e ringrazio anche Alex Racuglia. Ciao ragazzi, è sempre bello essere qui, è sempre bello essere nei vostri cuori e soprattutto nelle vostre orecchie. Pulitevele! Esatto, e ringraziamo sempre Alex anche per il mixaggio, per la regia, insomma, live che ha fatto questa sera, e tutti gli strumenti, hardware, software che sta sviluppando per poter sempre migliorare con Runtime Radio le nostre trasmissioni. Da me, Simone Pizzi, è tutto. Buonanotte, arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Buonanotte. Porco del cane, ancora. This podcast has been produced with Pod Cleaner. Pronto, dimmi. Ciao, chiamo da Brescia. Brescia mi piace, abbiamo già avuto diverse telefonate da Brescia. Bene, bene. Ho una critica da farti, accetti le critiche. Che c'hai? Una critica da farti, accetti le critiche. E certo che accetto, a me non me ne frega un cazzo. Bene, bene, diciamo che mi è un po' deluso, Richard, perché il rock è sinonimo di sincerità, mentre tu ci stai raccontando un'infinità di cazzate. L'altro giorno ho trovato il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. È possibile? Cosa hai trovato? Il tuo bastone infernale a 15 euro in tabaccheria. Non è possibile. Stai raccontando male di cazzate. È possibile, e poi chissà perché il tuo DVD non si trova nemmeno online. è da tanti il mio DVD non si trova online perché è dotato di una membrana speciale con cellula fotoelettrica che non si può inserire. Addirittura. Guarda, le cose le decido io. Tu stai dicendo un mare di cazzate? Ma sto stronzo, vattene a fanculo per cortesia. In tabaccheria non esiste nulla di niente ed è stata una mia decisione. Non farlo inserire su internet, non avere immagini amatoriali con internet. Vuoi vedere i miei contratti con la Sony? Sono decine e decine di fogli che ho firmato. Se non ci credi, senti, hanno telefonato da Portland, hanno telefonato da Vancouver, mi hanno tutti visto in concerto. Ma te l'ha pigliato il culo? Ma vattene a fanculo, brutto froso! Schifoso! Brutto froso, schifoso! Andiamo avanti con le telefonate. Accetto qualsiasi critica, ma non cazzate. Un pollo!